E eccoci qua pronti per un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola condotto da Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Buonasera a tutti. E Buonasera, se è sera, se non è sera, buongiorno o quello che buon pomeriggio. è. Bene, siamo pronti a parlare come lo scorso episodio, che speriamo vi sia piaciuto, in cui abbiamo tergiversato esplorando il genere dei giochi cooperativi. Parlando oggi di giochi da tavola che si basano sulla meccanica del deck building, ovvero della costruzione del mazzo. Sì. Giochi quindi dove ogni giocatore ha come sua risorsa fondamentale il suo mazzo di carte, che con le meccaniche del gioco va a costruire durante la partita, comprando o comunque conquistando o vincendo altre carte per migliorare il suo mazzo, che ogni volta che viene rimischiato con gli scarti o il cimitero, chiamiamolo come vogliamo, diventa sempre più forte e più bilanciato, si spera. Sì, Allora. la maggior parte di questi giochi di solito comprende un grande numero di carte perché per l'appunto deve dare un certo numero di variabili nel gioco perché sennò è facile impararlo. E molto spesso però si capita comunque di arrivare a riconoscere un po' le varie combinazioni. Quindi di solito questo genere è pieno anche di espansioni per incrementare il numero di carte. Infatti il più famoso probabilmente di questi giochi, che è Dominion del 2008, ha numerosissime espansioni che comunque per un gioco di questo genere sono fondamentali perché aumentano la rigiocabilità, la capacità di fare combo e spesso introducono anche nuove meccaniche. Personalmente Dominion non mi piace, perché è un gioco che chi conosce ha troppo vantaggio su chi non, sui giocatori che non conoscono il gioco, ma ha un vantaggio veramente schiacciante della serie faccio 5 volte i punti che fai te, perché è un gioco che si basa molto su fare catene consolidate, quindi come direbbero i giocatori di carte sui meta, ovvero su delle strategie predisposte e conosciute. In più Dominion, se, un altro difetto che trovo in Dominion è che l'ambientazione non è sentita minimamente. Dominion sarebbe Sì. questo gioco dove siamo dei feudatari medievali, ma togliamoci i disegni, il gioco può essere benissimo. Dimmi un'ambientazione a caso. Ma non lo so, è una. I pinguini di Una. Mr. Popper, ecco, Sì. può essere benissimo qualsiasi film vi viene in mente. Perché tanto l'ambientazione non è basata sulle meccaniche del gioco, e le meccaniche del gioco non sono basate sull'ambientazione. Nonostante questi miei gusti personali, Dominion è sicuramente uno dei giochi più apprezzati di carte. Ma bisogna anche dargliene atto, è comunque stato un pioniere del genere. Cioè, Sì. comunque ha elevato il genere del deck E building. poi il fatto che non piaccia a me non vuol dire niente, sono gusti personali, cioè non è che il gioco fa schifo perché non piace a me. Ed è anche un vincitore di Mensa Select, tra l'altro. E tra l'altro di espansioni ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e così via, più le promo e tutto il resto. Insomma, è un gioco Dominion che ha spopolato e come dicevo prima è popolarissimo tra i giocatori, soprattutto tra i giocatori di carte, perché si rifà molto. Comunque ha la capacità di creare mazzi funzionanti che possono apprezzare i giocatori di Magic, per dire, o chi fa tornei in cui il mazzo viene creato prima del torneo. Parlando di Dominion, la cosa particolare di Dominion è che nel nostro mazzo circoleranno anche i punti vittoria che facciamo. Questa è una delle meccaniche più particolari del gioco, molto apprezzabile. Cioè, per vincere la partita ci servono i punti vittoria che compriamo durante la partita e mettiamo nel nostro mazzo assieme alle altre carte, ma sono carte inutili che a parte dare punti non servono a niente. Quindi a fine partita ci servono, ma durante la partita non servono a nulla. Quindi questi punti non fanno altro che intasarci il mazzo. E questa meccanica mi piace molto, sinceramente. Te cosa ne pensi? Sì, è interessante. Inoltre, il gioco è di una discrezione, cioè è abbastanza molto semplice. Cioè, alla fine si tratta semplicemente di creare il proprio mazzo, e leggere l'effetto delle carte. Cioè, non è neanche non è né complesso da insegnare né complesso da giocare. Quindi ha un sacco di punti a favore. Tuttavia, può essere apprezzato per la sua meccanica o può essere visto come un gioco normale. Dopo dipende dai gusti, anche qui. Invece, parlando di un deck building molto particolare e italiano, tra l'altro, War Age, te lo ricordi War Age, Sì, l'ho giocato anche da poco no? tempo. Ecco, War Age è un gioco molto particolare perché in realtà tu compri una scatola che ti dà i componenti per creare, con cui i giocatori all'inizio partita creano il loro mazzo, come appunto succede nei tornei di carte in cui i giocatori. I tornei draft, ecco come si chiamano, dove i giocatori all'inizio partita ricevono un tot di carte e devono riuscire a creare un mazzo bilanciato con queste che ricevono. Il concetto del gioco War Age è questo, appunto. Nello starter set ci sono carte per creare i mazzi per i giocatori, cercando Sì. di E fare le combo che preferiscono durante la partita. qui si crea la differenza. Dominion è un gioco più simile a un Eurogames dove siamo diversi giocatori che cerchiamo a vicenda di fare il mazzo migliore, ma alla fine non ci pesteremo più di tanto i piedi a vicenda. Cioè, non è un gioco dove devi eliminare gli altri giocatori, è un gioco dove devi superare gli altri giocatori ed essere il migliore con il tuo mazzo. Mentre in War Age è proprio War Age rappresenta una battaglia, quindi sono due giocatori, sono due personaggi che si scontrano e il tuo obiettivo è sconfiggere l'altro giocatore, proprio sconfiggere il suo mazzo, combattendolo. Sì, esatto, dopo diventa simile a Magic, ovvero i due giocatori si affrontano con le regole di un combattimento uno contro uno, però la prima metà del gioco, che se i giocatori comunque non hanno la propria copia di War Age col mazzo già pronto, è appunto questa costruzione del mazzo. Sì. Anche se avendo una sola scatola base, un solo starter set, è difficile che tutti e due i giocatori riescano ad avere le carte che gli servono in quanto sono a numero limitato. Ecco, allora, War Age ha questo problema qui, infatti. Costruirsi il mazzo richiede una mezz'oretta, perché devi proprio scegliere tutte le carte, quindi devi anche leggertele, perché sono carte che possono essere utili, perché tu prima di crearti il mazzo devi scegliere la tua razza e la tua classe, quindi la razza che stai utilizzando che ha certi poteri e una classe che ti dà un numero di carte che potrai avere in campo a seconda del tipo di classe, per esempio come un paladino potrà avere più equipaggiamenti, un mago potrà avere più magie in campo, giustamente. Certo. Poi vabbè, ricordiamo che nella Ecco versione sì. italiana non abbiamo il paladino ma abbiamo il pladino, che in tutte le copie è stato scritto male nel gioco, e la cosa più buffa è che le carte che si basano su quella classe nella descrizione non hanno scritto questa carta potenza di 2 il paladino, c'è sempre scritto pladino. Quindi prendiamola così: non esiste il paladino in quel mondo, esiste il pladino, che è un concetto simile al paladino, ma non è la stessa cosa. Abbiamo i pladini. Comunque, bisogna comporsi un certo numero di carte di mazzo. E il mio consiglio è che quando si gioca War Age, i mazzi, se proprio se li devi disfare, almeno ti segni prima che carte lo componevano, oppure ti ritieni già pronti per le prossime partite, perché se no ci vuole sempre mezz'ora per rifarli. Che è quello che abbiamo fatto l'ultima volta che l'abbiamo giocato, con diverse espansioni che aggiungevano nuove razze, classi e un sacco di nuove carte. Le E espansioni questo. comunque sono anche aggiungono anche copie delle carte del set base, infatti si chiamano Armeria e Sì. Se Cripta, mi sembra. Sì. potesse anche un'altra. E questo qui è uno di quei giochi che si basa su quello, che devi avere molte carte, perché sennò rischia di essere ripetitivo. Nonostante questo, è sicuramente uno dei giochi italiani autoprodotti che ha raggiunto la miglior qualità, perché veramente è un gioco di altissima qualità e considerare che è un gioco appunto autoprodotto in Italia, che la casa editrice, la District Game, è stata creata apposta solo per questo gioco. War Age è sicuramente un progetto encomiabile. Adesso controllo che la District Game. Ah, forse ha fatto anche altri giochi. Sì, ha fatto anche Richard I. Non lo sapevo fosse sempre loro. Va Ok. Va bene. bene. E niente, quindi comunque War Age La scatola base costa una ventina di euro, se non sbaglio. Più ogni Sì, espansione ha quel è un costo. gioco molto piccolo, comunque è un gioco di carte, non contiene planche o miniature come in un Blue Moon Legend dove hai le miniature dei draghi, che in realtà semplicemente sono i punti di vittoria. Sai che Reiner deve sempre esagerare. Ok. Vabbè, poi andiamo avanti. E parliamo di un gioco fresco fresco che ho provato da pochissimo ed è Ok. Legendary Encounter Predator, perché Legendary Esatto. Encounter è una meccanica, come può essere Legacy per dire, che viene poi abbinata a diversi brand. Infatti esiste Legendary Encounter Predator, Alien e anche DC Universe. E tutti quanti, a parte l'ambientazione, hanno la stessa identica meccanica. È un gioco che, leggendo il regolamento, sembra complesso perché il regolamento è un po' prolisso e lungo. In realtà è di una semplicità mostruosa. Non è smash up, ma non è un poco più complesso di uno smash up, cioè. Praticamente il gioco funziona in questo modo. Intanto Predator ha due modi di giocare diversi. Si può giocare come umani che combattono Predator e poi giocando con l'ambientazione di Predator 1 o Predator 2, i film, o come i Predator che danno la caccia agli umani e cercano di fare più trofei possibile. Di base, semplicemente, c'è una timeline in cui i nemici escono e se noi non li affrontiamo da questa timeline loro riescono ad arrivare nella combat zone e quando è il nostro turno, a fine turno, il nemico della combat zone ci mena. Il problema è che un nemico che fa 4 danni non è che ci toglie 4 di vita, ci fa pescare 4 carte danno, che sono carte che vanno da 0 a 4 danni, quindi può farci anche 16 in un colpo. Quindi la parte umani contro Predator è questo cooperativo dove gli umani possono vincere in due modi, o risolvendo i tre obiettivi del film, se giocano o di Predator 1 o di Predator 2, o uccidendo il Predator finale, che esce comunque nelle ultime 13 carte. E per fare questo, nel loro turno principalmente fanno queste cose, possono. Innanzitutto la prima cosa che fanno è aggiungere dalla pila dei nemici un nemico in questa timeline dei nemici che vanno verso la combat zone e quello che esce, se non c'è un posto vuoto, spinge fino a crearsi un posto, quindi è questa spinta che fa arrivare i nemici dove si attaccano. E inoltre i nemici che escono da qui sono coperti perché per poterli vedere e successivamente attaccare bisognerà fare scan, ecco in italiano non saprei come dire. Rivelarli. Cioè, intendi cioè studiare le loro caratteristiche, cosa Per intendi per girare scanner? la carta, cioè quando vengono aggiunti alla timeline dei nemici sono coperti. Per Sì. poterli affrontare devi pagare un costo per poterli rivelare, Sì, li scopri, li vedi. siccome il gioco è solo in inglese è chiamato scan. E questo ha un costo in base a quanto sono lontani dalla combat zone. Più il nemico è fresco, appena uscito dal mazzo, più costa rivelarlo. Il fatto è che questa cosa bisogna farla perché è l'unico modo per uccidere i nemici prima che arrivino ad attaccarci, perché prima bisogna rivelarli e poi bisogna ucciderli. Per fare tutto questo, noi abbiamo delle carte nel nostro mazzo che all'inizio sono uguali per tutti. Abbiamo delle carte che ci danno influenza e delle carte che ci danno combattimento, più un'abilità data dal nostro ruolo. Dopo tutte le altre carte verranno comprate nel quartiere generale, dove ci sono le abilità dei protagonisti del film Predator 1 e Predator 2. E per comprare queste carte useremo l'influenza. Semplicemente durante il turno noi usiamo tutta la nostra mano, perché tanto tutte le carte a fine turno verranno scartate, anche quelle che non abbiamo utilizzato. E di ogni carta che giochiamo possiamo usare tutti i simboli, tutti gli effetti che hanno. Quindi una carta che fa pescare una carta, ci dà un'influenza e fa un attacco, ci fa pescare una carta, ci dà un'influenza e ci dà un attacco, appunto. Gli attacchi vengono utilizzati per fare scan e quindi rivelare i nemici e per attaccare i nemici, mentre l'influenza viene usata per comprare carte da aggiungere alla pila degli scarti. Quindi una carta appena comprata non entra subito nel mazzo, salvo abilità speciali. Ma bisognerà rimischiare gli scarti e ricreare il mazzo per poterla di nuovo, per poterla fare entrare in gioco. Di base il gioco è tutto qui. Semplicemente nel tuo turno riveli un nemico, usi tutte le carte che puoi per comprare, attaccare, dopodiché scarti la mano e peschi 6 carte. Fine. Questo è Legendary Ok. Encounter. Cos'è che lo rende complicato? Che ci sono tante abilità, e quindi la prima volta che giochi devi aprire molte volte il libretto per sapere cosa fa coordinazione, per sapere cosa fa il resto. Adesso non me le ricordo i nomi delle abilità. La più importante comunque è coordinazione, che è fondamentale e ricorda una meccanica di un altro gioco che è il Grande Libro della Follia. Ok. Le carte con coordinazione praticamente le possiamo usare anche quando non è il nostro turno per aiutare il giocatore di turno. Ok. E questa è la meccanica Legendary Encounter, che appunto in questo momento dovrebbe avere 3 giochi basati su questa meccanica. Purtroppo sono giochi americani che in Europa non hanno una distribuzione, una gran distribuzione, sono molto difficili da trovare. Ok, siccome hai appena citato, esistono, sono stati fatti negli ultimi tempi dei giochi che hanno, preso la meccanica deck building e Sì. l'hanno unita alla meccanica dei giochi cooperativi. Sono i Già. casi di Xenoshi Onslaught o, come hai detto prima, anche il Grande Libro della Follia. Che è un buon gioco, però all'andare un po' stanca, direi. Ha molti pregi, ma anche alcuni difetti. E probabilmente il problema di quel gioco è la sua limitazione. E non intendo limitazione di componentistica, ma alla fine dei conti, se tu lo guardi nel complesso, è una limitazione del turno dei giocatori. Sì. Tuttavia, è una bella esperienza. Cioè, io la prima volta che l'ho giocato ho detto: questo gioco è fantastico, ma poi mi sono stupito quando ho visto che costava anche poco. Nonostante, vabbè, è un gioco che comprende comunque una plancia delle carte più che altro. Però ha un buon prezzo, ha una bella grafica, ha una bella chimica per i giocatori, perché comunque siamo tutti lì, sempre col fiato sospeso. Bisogna cercare proprio di risolvere subito, di smettere di leggere questo libro perché impazziremo, se no. E questo è il concetto del gioco, che gli studenti di una scuola di magia hanno aperto questo libro maledetto, che li costringe a continuare a leggere le sue pagine, che sono rappresentate da dei mostri, e loro devono riuscire con i loro incantesimi e le loro azioni a chiudere il libro, cioè finirlo senza impazzire. Questo è il concetto del gioco, che è molto interessante. Ci sono vari personaggi selezionabili, e come dicevamo prima, è un cooperativo deck building, perché a seconda del personaggio che il giocatore ha scelto, avrà un mazzo composto da certe carte. E quindi i mazzi iniziali sono diversificati da tutti, diversamente dalla maggior parte dei deck building, dove tutti iniziano con lo stesso mazzo e poi cambieranno, cioè, aggiungeranno carte diverse durante la partita. Qui iniziamo tutti con un mazzo con carte diverse, e dovremo utilizzare gli elementi o per nella nostra azione utilizzare una magia di supporto, oppure per cercare di annullare un effetto negativo che il mostro della pagina cercherà di generare su di noi. Questo si baserà in base al numero di giocatori ci sarà più difficoltà in questa cosa, e anche la difficoltà del gioco selezionato all'inizio partita. Io questo gioco, me lo ricordo agli inizi, era un signore, cioè era proprio un gioco, wow, è fantastico questo gioco. Il giorno dopo che l'avevo giocato ne ho parlato con il nostro presidente dell'associazione, l'ho gasato perché lui è un amante di deck building, e si è giocato tipo 4 partite di fila. Poi subito, oh, dobbiamo giocarlo subito in modalità difficile, perché dobbiamo stravincerlo. Ovviamente l'abbiamo straperso 4 volte. Però ha una sua efficacia, ha anche una sua velocità volendo. Ma come dicevo prima, qual è il difetto del Libro della Follia? Se noi lo guardiamo nel profondo questo gioco, cioè lo guardiamo per bene, ci rendiamo conto che il nostro turno alla fine è composto da praticamente un'azione. Perché o usiamo una magia per dare un turno a un altro giocatore, o usiamo una magia per pescare un'altra carta, o scartiamo delle carte per ottenere altre carte. Alla fine dei conti, gireremo sempre sulle stesse cose. E il difetto di questo gioco è che non hai delle imprevedibilità, perché tu sai già tutto quello che c'è da fare. È una cosa che riprende un po' Andor della settimana scorsa. Mm-hmm. Andor è un gioco che a me non dispiace, è un gioco abbastanza tranquillo. Però hanno questo difetto. Tu non hai niente, non hai nessuna sorpresa. E la stessa cosa vale nel libro della follia, perché tutti i giocatori sono in sintonia e possono dirsi tranquillamente che carte hanno in mano. Quindi tu puoi già fare i calcoli. Ah, se tu hai quello, io ti do questa azione, puoi giocare quella carta per impedire che questo succeda. Perché tanto tu sai già tutto quello che succede. L'unica cosa che non sai è che se tu non annulli una maledizione, quella ti farà un effetto negativo che tu non sai qual è. Che però sono tipo di poche tipologie, alla fine dei conti comunque sai, più o meno potrei sapere quello che, a cui stai andando incontro. È giusto quello, ha poca variabile, e quello che personalmente io adoro dei cooperativi è poter fare un sacco di cose, e questo infatti, per dire, rende uno dei miei giochi preferiti Dead of Winter, perché Dead of Winter è un mattone da spiegare, ha una valanga di regole, ma proprio perché tu nel tuo turno puoi fare tipo 10 tipi di azioni diverse con un sacco di personaggi, cioè tu puoi fare un sacco di roba, le partite saranno sempre diverse per questa cosa. Mentre qui tutti sanno già cosa hanno in mano, per questa cosa c'è anche il rischio dell'alpha gamer, che ne avevamo già parlato la settimana scorsa. Sì. E quindi a lungo andare, quando tu giocherai molte volte questo gioco, inizierai a sentirlo sempre di meno emozionante. Le prime partite saranno bellissime. Poi inizierà a scendere lentamente, perché ti renderai conto comunque che i mostri, bene o male, sono, alla fine escono casualmente, però prima o poi ti capitano gli stessi. Le variabili non sono tante, perché tu puoi avere quattro tipi di carte in mano alla fine. Cioè, cambiano solo la numerazione, ma sono quattro simboli. Alla lunga è un gioco carino. È un bello, cioè, non è tra i miei giochi preferiti, ma non è neanche un gioco che detesto. Lo gioco volentieri. È che appunto con il tempo annoia dopo un po'. E salire di difficoltà nel gioco non aiuta, perché la difficoltà più alta del gioco, proprio quella proprio difficile, è semplicemente rallentare la sconfitta. È impossibile da vincere la difficoltà difficile, è proprio una cosa assurda. Sì, adesso io non ho mai vinto una partita a quel gioco, quindi anche a facile ho perso. Io ho vinto a media una volta, però è stata una partita abbastanza tranquilla, dai, quindi eravamo facilitati. Diciamo che le fondamenta, cioè il potenziale di quel gioco è la sua ambientazione. Tu appena lo giochi la senti anche tanto, cioè ti piace, ti coinvolge, poi dopo, quando lo rigiochi la sesta, settima volta, ormai sei già quello a cui stai andando incontro, non lo vedi più come una meccanica che stai cercando di sconfiggere un'altra volta, più che l'ambientazione, forse. Sì, infatti. Però è comunque un bel gioco, cioè per il suo prezzo, secondo me merita comunque. No, quello sicuramente è un bellissimo cooperativo, è l'unica cosa, appunto, ci giochi ogni tot, se ci giochi tutte le settimane, cioè, tira la noia facilmente, ma comunque quasi tutti i giochi sono così. Dipende, cioè ti voglio ricordare che nella nostra associazione c'è stata una maratona di Eldritch Horror, tipo, c'è stato un gruppo che ha giocato a Eldritch Horror per tipo 2 mesi di fila. Ma anch'io giocherei a Battlestar Galactica tutti i venerdì, Come abbiamo giocato anche Avalon, cioè ci sono certi giochi che te lo puoi permettere. Beh, Avalon è un filler, comunque. È un filler, va bene, però cioè, ci sono anche i filler che stancano. Cioè, Double è arrivato come un mostro sacro, adesso non si gioca più. Sì, ok. Vabbè. Per farti capire. Il mostro sacro mi sono un po' esagerato, però. No, però comunque ha fatto un successo enorme. E la stessa cosa vale per Nomi in Codice. Nomi in Codice, appena l'abbiamo scoperto, l'abbiamo giocato per 3 settimane di fila, poi è scomparso. Ok, va bene. E volevo aggiungere una cosa. Su Legendary Encounter. Che oltre alle versioni che ho citato prima, Alien, Predator e le varie sui supereroi, esistono anche quella di Firefly e di Grosso Guaio Chinatown. Ok, tutto qui. C'è anche la versione Marvel, se non ricordo male. Sì, sono dopo con tutte le varie espansioni del caso, c'è quella di Deadpool, dei Guardiani della Galassia e compagnia bella. Va bene, abbiamo parlato di un deck building cooperativo. C'è un altro deck building che nell'ultimo periodo, nonostante sia di 2 anni fa, dalle nostre parti ha fatto un sacco di successo e se lo sono comprati praticamente tutti. È Qual è? come qual è? Star Realms. Ah, sì, giusto, Star giusto. Realms alla fine è entrato nella collezione di metà associazione, ma ha anche i suoi motivi. Cioè, è un deck building veloce da due. Può essere giocato anche in 4, dice il regolamento, ma in realtà possiamo evitare tranquillamente. Sì, Chiamiamolo un gioco da 2. anche l'altro gioco di quella casa editrice, ovvero Epic, è la stessa roba da quel punto di vista. Se giochi in 4 Epic, il gioco non ha alcun senso. E Star Realms è un gioco classico deck building dove entrambi i giocatori iniziano con un massimo di 10 carte uguali identico e ci saranno delle carte a centro tavolo che dovranno essere acquistate. E quando le acquisteremo andranno negli scarti, e quando rimescoleremo il mazzo perché è finito, potremo ottenerle. E il nostro obiettivo è semplicemente sconfiggere l'avversario in questa battaglia spaziale con delle navicelle. Tema molto semplice, classico. Meccanica veloce, facile da imparare perché si basa su dei simboli, ma molto pochi simboli. Non prendiamo come esempio, cioè non facciamo qui l'errore di Race for the Galaxy, che è un gioco che per alcune persone è ingiocabile perché è pieno zeppo di simboli. Qui ne abbiamo pochi e sono semplici. E in più questo è un deck building, Race for the Galaxy è un po' diverso. E ha avuto talmente tanto successo che hanno fatto uscire la versione con Cthulhu, hanno fatto uscire la versione fantasy, ha una caterba di espansioni, ci sono persone che l'hanno giocato fino allo sfinimento, l'abbiamo presentato a Comics Popoli, ci sono certi ragazzi che si sono fermati e l'hanno giocato 6-7 volte di fila. Perché è uno di quei generi di giochi che può riprendere anche giochi, videogiochi online di carte che hanno una grande fetta di fan per queste meccaniche. Quindi ci sono giocatori che giocano a questo genere di videogiochi che possono passare a questo gioco da tavola e giocarlo fino a impararselo e creare le loro strategie. Perché qui la variabilità è data dal fatto che le carte che saranno a centro tavolo vengono mescolate e poi rivelate casualmente. Però comunque ci sono dei set di colori che vanno in combinazione tra di loro, quindi si può basare anche su quello. Semplice, veloce, costa poco perché è proprio un piccolo mazzo di carte, il gioco base. Le espansioni sono come delle bustine collezionabili praticamente, cioè sono delle bustine che contengono certe carte, però a livello estetico sembrano delle bustine che compri in edicola, anche se in realtà contengono delle carte di base, che sono proprio quelle lì, non è che le trovi la rara o non trovi quella che ti serve. Ci sono delle carte che sono già scritte quali sono. E niente, Star Realms, un gioco da 20-30 minuti. L'unico difetto che trovo di questo gioco sono i punti vita. Il gioco ti dà delle carte che rappresentano i tuoi punti vita che devi girare, rigirare, tu hai 5, hai perso 6, devo togliermi un 5, un 1 di qua, devo girare questa carta che è un 10, poi diventa un 5 se la giro. Ma quello lì è facilmente bypassabile questo problema con un blocchetto o semplicemente segnandosi sul cellulare i punti vita. Non penso che sia così problematica la cosa. E tra l'altro non possono essere imbustate con delle buste che hanno, cioè con delle buste non trasparenti perché queste carte nel retro hanno un altro numero di punti vita. Cioè davanti è un 10, dietro è un 5. E tutto qui. Direi che è un gioco che ha fatto il botto, è un gioco che ha venduto tanto, è un gioco che ha un voto anche abbastanza alto nei vari siti, quindi. Sì, è un gioco che a chi comunque ha già giocato giochi di carte, è un ex giocatore di Magic o quello che è, proprio è da dipendenza, diventa wow, è proprio il gioco fatto per loro. Sì, e infatti questa è fonte del suo successo comunque, cioè hanno studiato un gioco che prende quello che piace ai giocatori di carte ed ha avuto successo infatti. Mentre sempre della White Wizard Game, l'anno dopo Star Realms è stato creato Epic the Card Game, che Sì, secondo sì. me ha personalmente sempre, ha fallito totalmente nel creare almeno un gioco bilanciato, perché Epic a scatola chiusa lo compri, perché è una versione di Magic, sembra tipo una scatola con cui puoi giocare infinite partite Magic, diciamo, e con delle illustrazioni bellissime. Il problema sono delle meccaniche aberranti del gioco. Sì, perché Epic, diciamo, per intenderlo facilmente, riprende molte cose che possono somigliarlo a Magic, giusto? Sì, cerca di somigliare a Magic, ovviamente, perché a quello punta, però il gioco è sbilanciato, secondo me, perché ad esempio esiste un'abilità che distrugge qualsiasi altra creatura si trovi di fronte, Sì. e cioè tu hai evocato una creatura pagando un costo assurdo ed è fortissima. Ma questa viene distrutta da un'abilità comune, tra l'altro, che ce ne sono tantissime di carte con questa abilità, e come potrebbe essere distrutto un ratto. Cioè, diciamo, mentre in Magic può esserci il limite, distrugge una creatura che costi 4 mana o meno, qui non c'è il limite, quindi la creatura con forza 11-11, che vabbè, qui non è 11-11, però vabbè, che a forza 11 viene distrutta con la stessa abilità che distrugge la creatura con forza 1. È assurdo, cioè, tu provi a giocare sulla forza, in quel gioco non puoi vincere, devi giocare usando delle abilità quasi subdole, tipo evocare i non morti e cose così per forza, perché tanto l'altro con delle carte comuni riesce a distruggerti la tua creatura più grossa in un colpo continuamente. Sì, ha una meccanica di creazione, cioè di turno che è particolare, che tu hai un basso numero di monete, vengono considerate, per giocare Sì. carte. Mentre in War Age, che me ne ero scordato prima, la cosa particolare di quel gioco era che tu le carte nel turno le giocavi spendendo punti vita del tuo personaggio. La moneta di War Age erano i punti ferita del tuo personaggio, e quando il tuo personaggio arrivava a zero hai perso. Qui invece hai un mana di base, praticamente, che è tipo uno ogni turno, o una cosa simile. Adesso non mi ricordo, l'ho giocato tanto tempo fa. Però me lo ricordo bene questo gioco, perché è molto, molto estremo. Cioè, nel senso, ci sono carte normali, ci sono carte che sono 10 volte più potenti, e Sì. però possono avere lo stesso costo. Quindi se uno ha il mazzo con le carte potentissime e l'altro ha il mazzo normale, è una partita già bella che è finita. In più la meccanica della draft di questo gioco, se non vengono mischiate più scatole base, non riesci veramente a fare le combo, perché comunque ti fregano le carte. Cioè, è molto limitato come fase iniziale di deck building in cui tu ti crei il mazzo, perché rischi che ti rubino delle carte che ti servono e non puoi farci niente, perché tanto la fase di deck building è simile a quella di Seven Wonder, quindi le mani passano e passa all'altro giocatore e ti prende la tua carta. Sì, il gioco è un gioco piccolo anche questo qui, perché comunque è un mazzo di carte. Sì, costa dai 15 ai 20 euro, mi sembra. E siamo sempre lì come starriamo, sta alla stessa dimensione, allo stesso È prezzo, meno male. la stessa casa editrice. L'unico, un'altra cosa, anche questo gioco viene dato come da 2 a 4, giocarlo in più di 2 non ha alcun senso. Sì, Perché l'abbiamo provato. se lo giochi in 2 è uno scontro 1 contro 1, ok. Se lo giochi in 3, a uno distruggono tutte le creature e poi il giocatore dopo lo attacca e sto qua non si può fare niente. Quindi è proprio non ha alcun senso. Perché un giocatore, giocando in 4, addirittura un giocatore rischia che gli distruggono tutte le creature e poi ha altri due giocatori prima che tocchi a lui che lo riempiono di botte. Questo è un difetto che hanno questi giochi qui da scontro. Sono fatti apposta per essere di uno contro uno, anche War Age. Io ho giocato l'espansione che ti fa giocare fino a 4 giocatori, l'abbiamo giocata in 3. War Age finiva così, le partite finivano così. Un giocatore a un certo punto si potenziava tutto in un turno e attaccava un altro giocatore. Lo sconfiggeva, poi Poi dopo toccava al terzo giocatore che sconfiggeva quello che ha fatto l'attacco, perché l'altro ha dovuto usare dei potenziamenti che però gli hanno abbassato anche delle statistiche, per dire. Quindi alla fine vinceva quello che usciva per ultimo. E questo è il problema, questi giochi non vanno giocati inclusi i giocatori, sono fatti apposta per essere di uno contro uno. Sì, anche perché poi Epic, se si gioca in 4, vengono usate praticamente tutte le carte, e quindi i deck che vengono creati durante la fase iniziale di creazione del deck sono un po'... sono, cioè, molto forzati. Sì, strani, esatto, sì, esatto. Cioè, prendi roba a caso e, e se fai delle combo è perché sei stato fortunato nella fase di draft. Prendi quello che ti capita, diciamo. Un altro gioco che non è propriamente un deck building, perché ha talmente troppe poche carte che... cioè, alla fine è un gioco di draft, in realtà. Però, se consideriamo quante carte ci sono nel gioco, è Tides of Time. Lo conosci? Sì, ho presente. Cioè, non è un deck building, per carità. No, non lo è. È un gioco di draft come Fairy Tail o come Seven Wonder. Però, siccome il gioco ha 22 carte, una roba simile, e vengono usate tutte, quasi quasi, mi veniva da definirlo così. Però effettivamente non lo è. Cioè, se dovessi fare un aggiornamento del genere, io penserei più ad Ashes, però anche Ashes non è un deck building, perché sono mazzi già pronti. già preparati come Smash Up. Infatti anche Smash Up non lo considererei un deck building, perché tu unisci sì due mazzi, ma sono due mazzi già pronti, Sì, per cui esatto. Cioè, non è proprio la fase deck building, non è la stessa cosa. In realtà Smash Up è un deck building, però semplicemente prendi A e B e li unisci, fine. Sì, cioè, sì e no, io non lo definirei deck building. Non lo vedo, non lo vedo un deck building. Hai ragione, Tides of Time è un gioco di draft, effettivamente, pensandoci, perché comunque non c'è un vero deck, le carte finiscono in mano. Lo stesso Ok. vale per Seven Wonder, Fairy Tail, e quindi stavo pensando, quali altri deck building conosciamo? Tu hai detto Xenoshift Sì, e quello ne parliamo giusto un attimo. Sì, per non dilungarci Quello troppo. abbiamo detto che è sempre un deck building cooperativo. Però, come avevo già detto, il difetto dell'altro deck building cooperativo che era il Grande Ebo della Follia poteva anche essere che tutti sanno cosa hanno in mano qui. Anche in Xenoshift, tu bene o male sai cosa hanno gli altri in mano, perché c'è una fase in cui tutti comprano e ottengono dei potenziamenti diversi che possono giocare sul loro schieramento per difendersi dagli alieni. Tuttavia, queste carte le possono giocare anche nei turni degli altri, sui soldati degli altri giocatori. Però qual è qui il difetto? Cioè, no, qual è qui la cosa che contrasta questo difetto? Che tu sai tutto quello che hai in mano? Sono i mostri. Perché tu non sai cosa andrai a affrontare, non sai cosa affronteranno gli altri. Se tu aiuti troppo il giocatore che ha i mostri forti, quando toccherà a te tu non avrai nulla per difenderti e magari tu avrai anche dei boss nel tuo schieramento che faranno degli effetti assurdi e non ci potrai fare nulla. Quindi qui devi veramente cercare di dosare gli elementi e stare attento all'imprevedibilità del mazzo dei mostri. Infatti Xenoshift io l'ho apprezzato di più del Grande Libro della Follia. L'unica cosa che ha smorzato un pochino l'interesse per quel gioco, cioè che ha abbassato un pochino, è il fatto che è molto facile in quattro giocatori. Sembrava veramente impossibile da perdere in quattro. Ok. Direi che ci avviciniamo alla chiusura. Prima di ciò, però, citiamo qualche gioco di cui non siamo riusciti a parlare. Sicuramente, allora, uno dei deck building più grossi di cui non siamo riusciti a parlare è Thunderstone, Ok. che è proprio deck building nel vero senso del termine, cioè i due stregoni in stile Magic che si creano il deck a inizio partita scegliendo tra la grande varietà di carte del gioco e poi fanno il duello. Poi non abbiamo parlato di vari deck building basati su brand famosi, ad esempio esiste quello dell'attacco dei Titani di Naruto. E uno invece è anche molto quotato, il deck building di Resident Evil, che viene Sì. considerato un gran gioco dalla community. Uno invece che vorrei provare e che forse probabilmente comprerò a sto punto è quello di Cartoon Network. Cartoon Network Crossover Crisis sembra un gran gioco. Sì. Non sei d'accordo? No, Così. vabbè, perché male c'è, cioè. No, non lo dico solo perché c'è Samurai Jack, Dexter e tutti gli altri. Sembra veramente un buon deck building da quello che si legge in giro. E anche il deck building di Street Fighter, è vero, perché non abbiamo detto, ma esistono anche vari deck building per simulare l'esperienza picchiaduro dei giochi di botte. Però, prima di chiudere, un altro deck building molto famoso che se ne è parlato tanto, è Tanto Cuore. Sì, ho presente. Cioè, l'ho presente come è fatto, ma non l'ho mai. Non so come funziona. Anche perché se Dominion è del 2008, Tanto Cuore è del 2009, quindi anche lui è tra i capisaldi di questo genere. Tanto Cuore è un deck build come Dominion, se gli togliamo, cioè l'ambientazione non è sentita, e l'ambientazione di Tanto Cuore sono i manga shoujo quasi, shoujo made giapponesi, quindi con queste cameriere con gli occhioni in stile manga. E Tanto Cuore è molto molto apprezzato come gioco, e infatti era un peccato non citarlo. Va bene. Non so se venga considerato deck building, probabilmente no, però vado a darci un'occhiata. Te cosa ne pensi di Boss Monster? Secondo te lo consideri un deck No, building? no, No. non è un deck building. No, effettivamente no, perché Perché comunque. peschi carte e poi le giochi in campo, cioè non c'è una fase di costruzione del Hai deck che viene ragione, perché ciclato. qui hai una mano, non hai un mazzo. Qui hai solo una mano. Sì. Ovviamente, Thunderstone era Mage Knight, ecco un altro, Sì, vabbè. infatti no, ti eri confuso perché Thunderstorm mi Sì. sembra che sia un duello. Sì, ho sbagliato, non era Thunderstone, era Mage Knight quello che intendevo prima, scusate. Però anche Thunderstorm è un deck building, dovrebbe essere, se non credo, se non sbaglio. Sì, è un deck building, però quello che intendevo prima dei due stregoni che duellano era Mage Knight. Esatto. Va bene, e prima di chiudere la puntata, parliamo di una cosa molto bella, ovvero del fatto che un gioco italiano autoprodotto, che adesso ormai non è più autoprodotto, che per anni ha cercato un editore, ovvero Medioevo Universalis, questo gioco che chi frequenta Modena Play avrà visto, questo gigantesco risico medievale, risico per modo di dire, cioè nel senso che la plancia ricordava risico, e finalmente. Tramite Kickstarter è stato prodotto. E il Kickstarter durerà ancora 22 giorni da quando stiamo registrando, quindi quando ascoltate la puntata saranno un po' meno, ma è già stato fondato, ha raccolto già 103.000 euro ed è l'unico modo, da quello che viene detto nella pagina, per avere il gioco, perché il gioco non sarà distribuito, quindi esisteranno solo le copie prodotte in quest'ondata qui. Medieval Universalis è un gioco fino a 9 giocatori che vuole simulare i conflitti, la diplomazia del Medioevo, quindi un gioco che vuole simulare l'esperienza per chi è un giocatore di videogiochi di Medieval Total War, per dire. Eh sì, lo ricordo molto effettivamente, anche per la struttura della plancia. Sì, anche solo la scelta degli stati, dei limiti dell'Europa, del mondo conosciuto medievale, sembra quella di Medieval Total War, forse c'è un pochino di più, leggermente. E il gioco contiene anche un'infinità di miniature, Sì. cioè in realtà non è infinito, c'è scritto quante, ma adesso più di 500, ecco, e di alta qualità, e per il gioco è un bel mattone, infatti costa 200 euro. Ok, andiamo, però qui non abbiamo i pezzi giganti come Cthulhu Wars, anche nonostante costi così tanto. Dopodiché, per chi non farà Kickstarter, costerà 300 euro per le copie in più che finiranno nei negozi. Quindi chi fa il Kickstarter potrà risparmiare 100 euro, se poi avrà intenzione di comprarlo in seguito, sa che facendo Kickstarter risparmia 100 euro. Adesso probabilmente se si è degli amanti di questo genere di giochi si può fare una colletta tra varie persone nel caso sia un problema il prezzo, cioè proprio se Sì. si tiene ad averlo. Sicuramente, se si è giocatore di risico, questa è un'ottima occasione per passare a qualcosa di molto più profondo e strategico di quel lancio di dadi più penoso che è Risiko. Vabbè. Beh, bisogna anche vedere il regolamento del gioco. Adesso, per adesso noi non ne sappiamo nulla, quindi. Comunque, ne abbiamo detto, soprattutto per fare i complimenti all'autore che finalmente è riuscito a realizzare il suo sogno ed è una cosa bellissima. Sì, concordo, perché anch'io sono uno che ha creato un sacco, una persona che ha creato un sacco di prototipi, adesso ha provato in qualche piccolo caso a farli vedere agli editori. E in futuro magari riuscirò anche io a fare qualcosina, però mi fa piacere che qualcun altro ci sia riuscito e si abbia impiegato tanto impegno per farlo. Sì, infatti sono anni che ci sto dietro e se lo merita, se lo merita. Bene, per il resto, come sempre, vi invitiamo a venirci a trovare se siete in zona fuori Cesena tutti i venerdì sera alla nostra associazione Area Games for Lee, presso il Circolo President in Viale Roma, in zona Ronco, e dove dalle 9 fino all'1 e tre quarti, 2, giochiamo a giochi da tavola, e dove da noi in associazione nessuno resta in piedi, tutti giocano, quindi se vi presentate sul momento da qualche parte vi infiliamo, che sia Lorenzo il Magnifico, che sia Battlestar Galactica, in qualche gioco vi inseriamo. Spero per voi che sia più Battlestar Galactica che Lorenzo il Magnifico. Siamo sempre sui fattori di gusto, insomma, dai, non ci mandare via gli Eurogamers. Vabbè. E comunque, detto questo, ci salutiamo anche con questo episodio di Alla Conquista del Gioco su Radio Big World e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao. Ciao a tutti.